as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, di nuovo qui insieme oggi ad Il Pane e le Rose, puntata metalmeccanica. Noi siamo una trasmissione, chi ci ascolta lo sa, parliamo di tante cose. Dovremmo iniziare a parlare anche di lavoratori autonomi, visto che sono stato ripreso da alcuni lavoratori autonomi, da una lavoratrice in particolare che mi ha chiesto di parlare anche di loro. Vabbè, però la nostra trasmissione nasce come metalmeccanica e in questo momento non possiamo non parlare della questione più importante per noi metalmeccanici, che è la presentazione della piattaforma. Ci saranno le assemblee, tutte le fabbriche, si andrà a votare per presentare la piattaforma a Federmeccanica. Ecco, iniziamo con la prima puntata dedicata a questo argomento, facendovi ascoltare quello che De Palma, il nostro segretario nazionale, ha detto all'assemblea FIM, FIOM e WILM, che c'è stata a Roma poche settimane fa, in cui ero presente, faccio parte dell'assemblea nazionale, dunque ero anche lì. La diamo per intera, in cui lui parla di tante cose, ma parla anche della piattaforma. Ecco, io oggi faccio solo questa breve introduzione, ascoltiamo un bellissimo pezzo, poi ci ascoltiamo De Palma e non farò nemmeno le conclusioni, perché io penso che De Palma le faccia lui stesso le conclusioni di questa trasmissione. Ecco, sentiamo la prossima puntata, in cui ci saranno altre interviste, sempre riguardo al contratto nazionale, e affronteremo varie questioni, aspettando l'intervista con gli autonomi. Ciao! Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. It's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the African Mentre arrivavamo tutti quanti qui per questa nostra assemblea, dopo le assemblee che ciascuna organizzazione ha tenuto al proprio interno, ognuno di noi è arrivato qui con la propria bandiera. Ma io penso che stamattina noi che abbiamo organizzato questa nostra assemblea un piccolo errore lo abbiamo fatto, perché abbiamo messo le bandiere delle nostre tre organizzazioni sindacali, ma manca una bandiera secondo me su questo nostro palco, che è la bandiera della pace. Perché, ma non soltanto perché la guerra ammazza l'umanità, che è quella che stiamo vivendo in questi giorni guardandola in televisione, ma perché la guerra genera un cambiamento nelle persone, e lo genera non soltanto da un punto di vista economico, perché queste guerre che stanno accadendo intorno stanno generando degli effetti economici intorno a noi, ma stanno cambiando anche le persone. Prima la morte era una cosa che era stata espulsa dalla vita comune e civile, perché la guerra era stata il tentativo di espellerla dalla storia dell'umanità. Quello che sta succedendo invece in questo momento è che questa paura si sta albergando anche dentro le lavoratrici, i lavoratori, e ognuno rischia di chiudersi sempre di più dentro la propria condizione, provando a pensare che l'unico modo che ha di sopravvivere e salvare se stesso in una condizione come quella attuale. E noi siamo qui invece, oggi in questa assemblea, per non lasciare da solo nessuno e nessuna. Perché provate a pensarci, ma uno di quelle lavoratrici e di quei lavoratori, che ha un nome impronunciabile per noi lavoratrici e lavoratori italiani, non è caduto sotto le bombe e sotto le macerie di una qualsiasi guerra in giro per il mondo. È morto sotto le macerie della ricostruzione di un grande supermercato dell'Esselunga di Firenze, ma è morto sotto le macerie perché lui provava a scappare da una condizione di guerra e costruirsi una proiezione di vita. Ecco, se noi ci pensiamo, la questione della vita delle persone è la prima delle questioni dalle quali noi dobbiamo partire se vogliamo sentirci e provare ad essere elemento di cambiamento non soltanto dentro i luoghi di lavoro, ma anche dentro la società dentro la quale siamo. E a Firenze quello che mi ha particolarmente colpito è che nelle ore successive a quello che è accaduto, per dire di come ormai le regole valgono per noi ma non valgono invece per chi comanda, nelle ore successive, nei giorni successivi, noi ancora oggi non sappiamo il nome e il cognome e quante siano le lavoratrici e i lavoratori che sono morti dentro quella condizione di appalti e subappalti, in cui alla fine la ricostruzione di quel posto è stato il cimitero per lavoratrici e lavoratori che invece cercavano di costruire una condizione diversa per se stessi e per gli altri. Questo interroga tutti noi. Perché siamo un paese in cui la mattina discutiamo di industria 4.0, il pomeriggio discutiamo di industria 5.0, discutiamo di intelligenza artificiale, di innovazione, di cambiamenti, e poi dopo la gente continua a morire esattamente come moriva 10, 20, 30 anni, 40, 50 anni fa. È inaccettabile che nell'epoca della manutenzione predittiva, della manutenzione predittiva, cioè il fatto che io so prima che cosa succede dal punto di vista delle manutenzioni di una macchina a controllo numerico o di una qualsiasi altra macchina dentro l'azienda, per cui l'azienda che ci lavora viene prima a sostituire i pezzi, non siamo in grado di avere una tecnologia che invece è nelle condizioni di salvaguardare la vita di chi lavora dentro i luoghi di lavoro. E questo è un punto di sfida nei confronti del sistema delle imprese, ma anche nei confronti del governo. E oggi siamo qui e possiamo dirlo. Ci siamo perché abbiamo lavorato nel corso di questi mesi a costruire una piattaforma, non chiudendoci nelle segrete stanze del palazzo dell'FLM, Perché sapete, io ho sentito gli interventi, tutti riconoscono ai segretari generali il proprio ruolo, ringrazio le compagne e i compagni dell'ufficio sindacale, delle segreterie che ci hanno lavorato, ma vogliamo dirci la verità? Noi possiamo essere i migliori segretari generali e le migliori strutture nazionali della Terra, ma senza le delegate e delegati dei metalmeccanici, che sono in grado ogni giorno di essere dentro i luoghi di lavoro il punto di riferimento, la rappresentanza reale delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi, una piattaforma così ambiziosa, non saremmo stati nelle condizioni di poterla costruire. Perché in queste settimane, ha ragione Rocco che l'ho detto in apertura, abbiamo provato a fare un lavoro prima di cominciare a scrivere. Abbiamo provato ad ascoltare le iscritte e gli iscritti, ascoltare le delegate e i delegati e provare a far sì che la piattaforma non fosse, fatemi dire, la scoperta quando arrivi all'assemblea delle singole organizzazioni che scoprono quali sono gli elementi che ci sono dentro. Abbiamo provato invece a costruire un filo in cui il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori è quello che poi dopo diventa l'inchiostro che segna la carta su cui noi scriviamo la piattaforma. E l'ipotesi di piattaforma, compagni e compagni, oggi noi la lanciamo, ma per diventare la piattaforma delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici, se non ci sono le assemblee in cui fabbrica per fabbrica, ufficio per ufficio, lavoratrice per lavoratrice e lavoratore per lavoratore, noi non li coinvolgiamo nell'idea e nel voto poi dopo nelle assemblee, che licenziano la piattaforma nazionale come la piattaforma non di Finfiom e Wilm, ma delle metalmeccaniche, dei metalmeccanici, è chiaro che da lì parte la nostra sfida nei confronti della Federmeccanica e del governo di questo paese. E penso che per poterla costruire questa nostra piattaforma, vogliamo anche qui dirci un elemento di verità, una parte di quella piattaforma noi non l'abbiamo scritta a Roma, ma l'avete scritta voi. Quando avete negoziato e contrattato nei grandi gruppi nazionali, quando avete negoziato e contrattato dentro le aziende, quando avete contrattato e negoziato sui territori, perché una parte delle indicazioni che fanno parte delle richieste che noi avanziamo nell'ipotesi di piattaforma sono il risultato di quello che voi avete realizzato nella contrattazione di secondo livello, perché il punto è che tra il dire e il fare c'è la misura di quella che è il rapporto di fiducia che noi abbiamo con i lavoratori. E qui c'è un punto: noi dobbiamo continuare ad essere i metalmeccanici della coerenza. C'è una relazione tra il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello, in cui i contratti di secondo livello devono essere contratti realmente integrativi di quello che stabiliamo con la nostra contrattazione del contratto nazionale. È per questo che per farla diventare una piattaforma unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, noi abbiamo bisogno di ricostruire una coscienza tra i lavoratori. Vogliamo essere anche qui diretti. Scusate, ma è successo soltanto a voi di trovarvi in assemblee in cui, quando ci sono stati gli aumenti contrattuali del contratto nazionale, lo abbiamo dovuto spiegare alle lavoratrici e lavoratori che quei soldi lì non venivano perché glieli dava il governo o perché glieli dava l'impresa. Venivano dal fatto che avevi rinnovato un contratto nazionale e che avevi inserito una clausola di salvaguardia che avrebbe garantito il potere d'acquisto poi dopo per l'IPCA che si è determinata negli anni successivi. Noi abbiamo la necessità di ripiazzare in testa alle lavoratrici e lavoratori il valore del contratto nazionale, e per poterlo ripiazzare in testa noi dobbiamo provare a costruire nel rapporto con i lavoratori un'idea precisa. E l'idea è che il contratto collettivo nazionale è il contratto che mette insieme gli operai con gli impiegati, i tempi determinati con i lavoratori a tempo indeterminato, i turnisti con gli smart worker, i siderurgici con gli informatici, cioè la piattaforma delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici tutti, in cui si costruisce un vincolo di solidarietà tra le persone. Perché se c'è una cosa che invece uno vive dentro la società in cui ogni giorno è costretto a vivere, sono il clima di egoismo, di corporativismo, di aziendalismo, in cui ti spiegano che se fai da solo ti salvi prima e meglio di tutti gli altri. No, la contrattazione collettiva invece è la solidarietà tra le persone che emancipa tutti nei confronti del sistema delle imprese. Ed è lì quando noi contrattiamo collettivamente che impediamo all'azienda di decidere a chi dare qualcosa e a chi togliere qualcosa. Ecco perché il valore del nostro contratto nazionale è esattamente il tema della solidarietà. E noi abbiamo la consapevolezza, quando ci chiederanno, ma voi, queste richieste importanti da un punto di vista economico, com'è che le avanzate? Perché si è fatto largo nel corso degli anni l'idea che il nostro sistema industriale nazionale dovesse competere con gli altri sistemi industriali sulla base della capacità di flessibilità della prestazione lavorativa e sulla base del contenimento del salario delle persone. Perché? Perché ogni volta che vai a un tavolo negoziale ti spiegano che la produttività di altri sistemi è più forte di quella del nostro sistema e quindi scaricano sul lavoro esattamente il punto di gap competitivo che hanno con altre situazioni in giro per il mondo. E arriva al punto, sono intervenuto dopo il segretario della UILM di Bari e della Puglia, che nel mezzogiorno, ogni volta che si presentano ad un tavolo, e questa ne è la dimostrazione, ti dicono che devono procedere a delocalizzazioni o riallocazioni delle produzioni perché appunto c'è il punto della competitività con altri sistemi di impresa. Noi invece vogliamo dimostrare con questa piattaforma esattamente il contrario, e che per poter impedire la dismissione dell'industria del nostro paese e poter determinare invece la transizione industriale, noi facciamo una piattaforma che nella sua prima parte si pone il tema di combattere i processi di dismissione e di delocalizzazione, e se lo pone perché pone il tema della partecipazione dei lavoratori e del ruolo strategico dei lavoratori come elemento centrale. Ci si trova spesso in televisione, quando si guardano, dicono quali saranno gli effetti della transizione sulle lavoratrici e sui lavoratori. No, la progettazione, l'installazione, la produzione del cambiamento della transizione non sono gli effetti sui lavoratori, ma senza i lavoratori quella produzione, quell'installazione, quella ricerca, quello sviluppo non si determina. Quindi siamo noi che dobbiamo avere il coraggio e la dignità di affrontare il tema a testa alta nei confronti delle imprese, che se c'è una strategicità dell'industria, ebbene quella strategicità dell'industria noi la dobbiamo rimettere al centro attraverso la valorizzazione dei diritti che sono dentro il contratto nazionale. È per questo che nel corso di questi prossimi mesi non sarà facile, perché noi avremo i compagni dell'ILVA e i compagni della ex GKN e i compagni della Whirlpool, piuttosto che i compagni di tante aziende metalmeccaniche che dovranno affrontare il problema delle riorganizzazioni, delle crisi, delle ristrutturazioni, e altre lavoratrici e lavoratori metalmeccanici in cui, come quelle per esempio del mondo dell'informatica, in cui invece il problema è l'assorbimento dei minimi contrattuali, e altre situazioni in cui avremo il problema dei rinnovi dei contratti di secondo livello. Avremo un mondo metalmeccanico che avrà varie sfaccettature al proprio interno. Qual è l'elemento che li può tenere uniti? Ecco, io penso che la piattaforma che abbiamo provato a mettere insieme è una piattaforma di un contratto nazionale di tutti e per tutte le metalmeccaniche e i metalmeccanici, perché ha provato a valorizzare quello che nel rinnovo del contratto nazionale precedente noi siamo stati in grado di determinare. E qui c'è un punto. Quando sono andato con FIMEUILM all'appuntamento di Treviso di Federmeccanica, Federmeccanica ha parlato della qualità del lavoro. Mi ha colpito molto il fatto che in quella qualità del lavoro non ci fosse l'elemento del salario delle persone. Io penso che per noi la qualità del lavoro è fatta evidentemente dal fatto che vogliamo confermare il sistema contrattuale che abbiamo avuto nell'ultimo rinnovo del contratto nazionale, ma vogliamo provare anche ad affrontare i problemi che dentro le aziende metalmeccaniche si sono determinati nel corso di questi anni con la perdita del potere d'acquisto del salario delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici. È vero, siamo stati il contratto nazionale che negli ultimi 2 anni ha difeso meglio di tutti gli altri il potere d'acquisto delle persone, ma quando vai in assemblea quella differenza tra l'IPCA depurata, l'andamento dell'inflazione e la crisi che c'è lo senti nella vita delle persone. È per questo che noi abbiamo chiesto un aumento contrattuale che va oltre l'IPCA depurata. Ecco perché io credo che insieme a questo l'elemento nuovo che noi vogliamo provare a portare dentro questo nostro contratto nazionale è una valorizzazione del rinnovo contrattuale che abbiamo avuto precedentemente. Permettetemi di dirla così: quando si dice un contratto di tutti e per tutti, vuol dire che per poter difendere e promuovere il lavoro stabile, e non lo difendono le lavoratrici e i lavoratori precari, tutti noi facciamo la contrattazione di secondo livello, vogliamo dirci la verità? Quando metti in piattaforma i soldi del PDR e la stabilizzazione dei lavoratori precari, le aziende ti vengono sotto e ti dicono: ok, sul PDR ti vengo incontro, ma sulla stabilizzazione dei lavoratori precari faccio qualche difficoltà. Allora qui c'è un punto di scelta della natura e della storia dei meccanici. O noi siamo in grado di prendere quelli degli appalti, dei subappalti, dei lavoratori precari, e sono le lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato che lottano e combattono insieme ai lavoratori degli appalti, dei subappalti e dei precari per poter stabilizzare il lavoro, oppure noi questo elemento non lo portiamo a casa nella trattativa. Ecco perché c'è un'esperienza, e concludo, davvero straordinaria che noi in questo rinnovo abbiamo fatto. Fatemi dire così: noi uomini dovremmo imparare un po' di più dalle donne. Il percorso che è stato realizzato di Generiamo Cultura, abbiamo provato a valorizzarlo anche dentro la piattaforma che stiamo provando a portare all'attenzione delle lavoratrici e dei lavoratori, e poi dopo del sistema delle imprese. Ecco, io credo che quella cultura delle relazioni, quella cultura del rispetto, quella cultura della differenza, quella cultura della pluralità è quella che dovrebbe caratterizzare anche il modo con cui ciascuno di noi, io della FIOM, un altro della FIM, l'altro della UILM, chi ha collocazioni diverse o viene da mondi diversi, deve trovare dentro questo percorso di rinnovo del contratto nazionale. Io penso che questa nostra piattaforma è una piattaforma molto impegnativa, e dovremo dire ai lavoratori che dovremo essere pronti a tutte le iniziative necessarie per poter provare a portare a casa le richieste che abbiamo avanzato. Io penso che insieme, per la dignità e per il contratto di tutti e di tutti, noi insieme ce la potremo fare. Grazie. Heaven in Jesus' name. No. We